for a guide to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations fare the end, so leave them for another day. I've got the spirit, needs a feeling, take the shock away. Gennaio del 2022. Inizia Disorder anche per oggi, per l'appunto 10 gennaio. On the 10th floor down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out. Spazio che andrà avanti fino alle 23 circa, spazio che si occuperà di gothic, di elettronica, neofolk, insomma una programmazione alquanto varia che caratterizza il lunedì sera ormai da lontano 2002. Il sito della radio è www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci mediante lo streaming, quindi via web. Saluto Death Di Carlo from Boston, Maya dalla Sardegna, Jess Callagher, Catania. E poi Rodrigo Passannanti, Cecilia Miradoli di Pindar, Valerio Michetti e Ale Trinity della Grazia Obliqua e Fate to Grace, Rosa La Vita, progetto omonimo. Francesco Cornello in quel di Bergamo, Laura da queste parti al pari di Alessandra. Enrico Ponzoni di Sokushi Butsu Project, peraltro alle prese con un nuovo lavoro che ascolteremo presto dalle parti di prove tecniche di trasmissione. E vado anche a salutare il buon Roberto Faloci di Phantom Ship, un'interessante avventura dark ambient proveniente dall'Umbria. Da queste parti è se noto quel musicista che porta il nome di Dirk Evans, famoso perché lo abbiamo sempre apprezzato sia come Dive, come Clinic, come Absolute Body Control, Sonar. Ma non contento del suo essere così stacanovista, si è dato anche al Kraut Rock attraverso un trio dal nome Motor K, che ha stampato fino ad ora attraverso la Autoline due album. Motorcade number 2, ce lo siamo ascoltati qualche tempo fa e quindi adesso vado a riprendere l'esordio targato 2019. Qui Dirk Evans non canta, si diletta e si alterna alle tastiere e alla chitarra, se non erro. E andiamo ad ascoltarci proprio la traccia che apre questo Motorcade dal nome Static. Dunque, era l'esordio per quanto riguarda Motorkey, questo progetto proveniente dal Belgio. Motorkey numero 1, basato fondamentalmente sulle tematiche del kraut rock, ma poi irrobustito di iniezioni di incalzante minimal dark wave. E d'altronde Dirk Evans, di lui sappiamo pressoché tutto. I suoi compagni di avventura in questa circostanza sono Dries Dollander e Jory Dobbelaer. Materiale che esce attraverso l'Auto Line, una entità importantissima per quanto riguarda i suoni oscuri, elettronici e anche industrial, etichetta di Berlino e di Lipsia. Saluto intanto il buon Bruno Cossano, un pezzo di storia industrial degli anni Ottanta che ci ascolteremo mercoledì prossimo, nonché anche appassionato tramite una sua emittente ad Ivrea, sempre di suoni anche in parte riconducibili al disordere e a prove tecniche di trasmissione, quindi un saluto a lui. Buonasera Lucia Cagliazza, in arte Lupsi, è uscito un ultimissimo lavoro, presto in prove tecniche di trasmissione Marco Milanesio di Disordine. E dunque, diciamo, l'elemento krautrock è fondamentale in Motorkey, come in un certo contesto sotto traccia si può anche percepire livelli di psichedelia non indifferenti, elementi ripresi e sviluppati in chiave garage attraverso poi i New Candies. Loro provengono da Venezia, una delle realtà più interessanti dello shoegaze. Shoegaze e dintorni, ci ha ricordato i vecchi Velvet Underground e più recentemente Jesus & Mary Chain, Primal Scream. Ma veniamo a Vivid, quarto lavoro per loro. Da Vivid ci ascoltiamo The Clockmaker e Snake Eat Snake. Dunque, erano i New Candies, nel frattempo è tornato lo streaming, vado a rassicurare tutti quelli connessi fino ad ora, scomparso per un minuto circa. E comunque ciò che ci stavamo ascoltando erano i New Candies, questo quartetto veneto che traborda di umori 60s, anni 60, di shoegaze, ma anche con elettronica sottotraccia. New Candies, dunque, Vaved. L'elettronica invece la fa da padrona, soprattutto nella sua dimensione più prossima all'IBM, riguardante i DAF, i Deutsch-Amerikanische Freundschaft, l'amicizia tedesco-americana, e c'era molta ironia allora, quando nacquero nella fine degli anni 70. Sapete le vicende legate purtroppo alla scomparsa di Gabby Delgado Lopez e quindi la decisione di Robert Gorley di continuare da solo, tirando fuori quel materiale che era in previsione per quanto riguarda un nuovo lavoro, lo ha completato lui, cantandolo anche. E lo ha fatto, direi, egregiamente, questo Nur noch Heiner. Si conclude con Holland Road, Das Geschenk e Nur noch Heiner, per l'appunto la title track. Apple.